Con l'amore e la speranza, la fede è una delle tre virtù teologali. Per quanto l'uomo cerchi di essere gradito a Dio, senza fede è impossibile piacergli. Queste due sole verità mettono la fede in una posizione importantissima, fanno sì che ogni credente miri ad essa, ne parli, che essa sia oggetto di studio e di insegnamento. Molti libri sono stati scritti per ricordare la vita di tanti uomini di Dio, e spesso nell'ottica di metterne in risalto la fede. La fede forse occupa nella mente dei figli di Dio il posto d'onore, un posto più importante dell'amore. L'amore è sì importante, ma senza fede non si entra nel regno di Dio, non si rimane in piedi nel cammino cristiano, non si può resistere agli attacchi del maligno, non si è esauditi nelle preghiere, non si possono compiere grandi cose per Dio. Spesso, fra i credenti, le accuse non sono rivolte alla mancanza d'amore, ma alla mancanza di fede. L'accusa «tu non hai fede» è forse più umiliante di un'accusa di essere mancanti d'amore. Chi viene tacciato di mancare di fede, si sente un verme, comprende di mancare in uno degli obiettivi più importanti della sua vita. Proprio perché la fede riveste nel cammino cristiano un simile ruolo, è più che opportuno studiarla. Perché, per quanto capito, si scambia la fede per qualcos'altro. Iniziamo subito a definire cosa è la fede. La parola di Dio definisce la fede, certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Ebrei 11:1. Sperare, cioè avere la certezza di attendere ciò che ci è stato promesso e mettere in pratica ciò che fa parte del regno di Dio che non si vede, significa, in altre parole, aderire ad una testimonianza. Quest'ultima definizione forse ci avvicina di più alla nostra cultura. La fede, quindi, per essere tale, deve essere composta da due elementi base: una testimonianza, o rivelazione verbale o meno che sia, e una adesione ad essa. Ogni altra valutazione sulla fede che non contenga questi due elementi non è la virtù di cui parla la Scrittura. Così, quando si dice che uno manca di fede, dobbiamo chiederci: fede sì, men che cosa? Se la fede è l'adesione ad una testimonianza, dobbiamo valutare prima la testimonianza sulla quale la fede deve riposare. Diversamente la fede, per quanto grande sia, non ha valore. Ciò che rende valida una fede non è la grandezza di essa, ma il soggetto sul quale riposa. Queste riflessioni, calate nella realtà della vita di ogni giorno, applicate al cammino di una chiesa, hanno la proprietà di scuotere fortemente le fondamenta di certi luoghi comuni. Poiché la fede, il più delle volte, viene chiamata ad essere attiva nei momenti di necessità, e poiché, per quanto se ne dica, sentiamo il bisogno di una particolare fede nei momenti di serie malattie o situazioni difficili e drammatiche, consideriamo l'atteggiamento che abbiamo in questi casi per verificare che tipo di fede abbiamo e in che cosa abbiamo fede. La maggioranza dei figli di Dio, di fronte alle difficoltà o malattie, invoca la necessità di essere vittoriosi, di credere in un Dio onnipotente e misericordioso, che ama i suoi figli, per cui essi ritengono mancanza di fede se non vi sono tali aspettative. Secondo un cliché prettamente evangelico, i figli di Dio devono essere vittoriosi sul male, sui nemici, non devono avere difficoltà insormontabili. Se capita d'ammalarsi di un tumore, in qualche modo, ciò disonora Dio, perché è sufficiente chiamare gli anziani, essere unti di olio e la preghiera della fede guarirà il malato. Fede. Questione di fede. Se la situazione è drammatica, è sufficiente indire una riunione di preghiera. E, se casomai la situazione non si risolve, s'adduce ad una mancanza di fede. E così i figli di Dio si sentono in colpa, ritengono di non aver avuto sufficientemente fede, e invocano Dio perché aumenti la fede. Fede sì, ma in che cosa? Non si può parlare di fede senza dare uno sguardo al capitolo che l'autore della lettera agli Ebrei dedica alla fede. In quel capitolo sono elencate alcune persone, uomini e donne, che sono state gradite a Dio perché hanno avuto fede. Si inizia a parlare di Abele, per poi elencare eccellenti nomi, quali Enoch, Noè, Abramo, Mosè, Rad, prendendo atto che non si potevano descrivere dettagliatamente le vite di tutti coloro che hanno avuto fede, così si continua, e che dirò di più. Infatti mi mancherebbe il tempo se volessi raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele e dei profeti, i quali per fede vinsero regni, praticarono la giustizia, conseguirono le promesse, turarono le gole dei leoni, spessero la forza del fuoco, scamparono al taglio della spada, trassero forza dalla debolezza, divennero forti in guerra, misero in fuga gli eserciti stranieri. Le donne riebbero per risurrezione i loro morti, altri invece furono distesi sulla ruota e martoriati, non accettando la liberazione, per ottenere una migliore risurrezione. Altri ancora subirono scherni e flagelli, e anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, tentati. Morirono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecore e di capra, bisognosi, afflitti. Maltrattati, il mondo non era degno di loro, erranti per deserti e monti, in spelonche e grotte della terra. Eppure tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza mediante la fede, non ottennero la promessa, perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio, affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Ebrei 11, 32-40. L'autore della lettera è stato affascinato dalla fede delle persone che ha elencato. Ha ricordato che per la loro fede hanno ottenuto delle vittorie strepitose, scamparono ai pericoli e addirittura le donne riebbero i loro morti. Questo può fare la fede, questo fa la fede. Ma l'autore della lettera non si è soffermato solo a questo aspetto. Ma, come è caratteristica della parola di Dio, egli presenta un'altra verità. Egli continua col dire che per fede alcuni sono stati torturati, che per fede sono stati imprigionati, che altri sempre per fede furono uccisi, maltrattati, scartati dalla società, non ottennero la promessa. Situazioni diverse, conclusioni opposte, ma tutte sono il risultato della fede. Queste riflessioni mi portano alla convinzione che tanti figli di Dio abbiano scambiato le proprie personali opinioni riguardo questo basilare argomento con il reale significato di fede. Non vi è nulla di male a credere in un Dio onnipotente, ma non vi nulla di più deleterio di avere una concezione sbagliata dell'onnipotenza di Dio. Il Dio che si rivela nella sua parola è un Dio che non sempre vuole risolvere i nostri problemi. Nella parabola delle zizzanie, i servi chiesero se potevano togliere le zizzanie, ma il padrone disse: «Lasciate che crescano entrambi insieme fino alla mietitura». A Paolo, che chiese per 3 volte di essere liberato dal suo male, Dio rispose che la sua grazia gli bastava. Per fede si possono risolvere i problemi della vita, ma sempre per fede si possono accettare. Per fede si può ottenere la guarigione, ma sempre per fede si può accettare un tumore. Questo è il messaggio che lancia la Scrittura. Noi siamo propensi per istinto a ricercare la fede che guarisce, quella che risolve, conclude. Ma accettare solo un aspetto della fede significa mancare di fede. Quale fede? Fede in chi? Stavolta non ci poniamo più la domanda fede in che cosa, ma in chi, perché si tratta di conoscere la fonte dalla quale noi attingiamo la fede. È vero che i figli di Dio pongono fede nella Scrittura e che essa è autorevole e vera, ma la fede dei cristiani deve essere posta prima di tutto sulla parola incarnata, sulla persona di Gesù, su il Dio che egli ha rivelato. Noi possiamo anche comprendere malamente una promessa di Dio, espressa nella sua parola, come del resto è capitato a molti di coloro che credono in lui. Per questo possiamo anche pensare che Dio voglia liberarci da una situazione o da una malattia anche quando non è così, ma è molto difficile sbagliarsi su Dio circa le sue principali peculiarità. Come nel matrimonio, posso comprendere in malo modo un discorso del mio coniuge, ma è quasi impossibile che non ne conosca le caratteristiche generali. Proprio perché alcune caratteristiche di Dio sono evidenti, fin troppo evidenti, la sua sovranità sugli eventi della vita è indiscutibile. I cristiani credono che nessun passero cade a terra senza il volere del Padre. e per questo vivono, o dovrebbero vivere, con uno spirito di fiducia e di abbandono tipico del bambino appena nato. Questo comporta che, di fronte alle malattie e alle difficoltà, dopo aver chiesto a Dio la liberazione, se ciò non avviene, essi devono ritenere, sempre per fede, che questa sia la volontà di Dio. Sono inutili i sensi di colpa, le accuse che non si abbia avuta sufficiente fede, sono inutili i rimorsi che si avrebbe potuto fare di più, perché ciò disonora la sovranità e volontà di Dio. È certamente peccato e grave mancare di fede, ma fede nella sovranità, in un Dio che è sovrano in ogni caso, che va anche oltre la promessa. All'infuori della vita eterna e delle sue conseguenze, non tutte le promesse di Dio sono per tutti, perciò si possono fraintendere. I profeti che morirono martoriati, Giuda, che al tempo degli apostoli fu ucciso di spada, non avevano meno fede di coloro che vinsero regni, che fecero scendere del fuoco dal cielo, di coloro che divisero le acque. Certamente molti figli di Dio pregarono per Giuda come per Pietro quando era in prigione, e fu liberato, ma mentre Pietro ritornò in libertà, Giuda morì. Chi ebbe più fede o chi mancò di fede? Nessuno. La liberazione di Pietro e la morte di Giuda sono stati ambedue il risultato dello stesso atto di fede. Fede in Dio che dispone le cose come vuole. Noi possiamo avere una nozione sbagliata della fede, e per questo quando i figli di Dio si trovano in difficoltà, quando sono sotto al maglio del tumore, spesso si cullano in lamenti e suppliche. Non sono di edificazione per nessuno. Certo, fa molto piacere ed edifica l'esperienza di un figlio di Dio, che all'improvviso, dopo aver pregato, è liberato da una grave difficoltà o guarito improvvisamente da un tumore, ma dobbiamo anche imparare ad essere edificati e quindi onorare anche chi si sottomette, per fede, al Dio onnipotente e sovrano, accettando la via angusta che deve percorrere, mantenendo il desiderio di espugnare ogni felicità. Noi siamo chiamati ad aver fede, perché senza fede non possiamo piacere a Dio, ma la fede che scaturisce da una sua testimonianza. Possiamo, senza volerlo, disonorare Dio credendo ad una promessa che non è per noi, ma è impossibile. Disonorare Dio se, dopo averlo pregato, nonostante la morsa del dolore, il cuore sconvolto, la forza tranciata e un cuore frastornato, accetto le circostanze della vita come espressione della sua volontà e risposta alla mie preghiere. E lì dimoro. Questa è la fede che dà riposo ai dubbi della ingovernabile mente e agli inganni dell'insanabile cuore. Questa è la fede che deve accompagnare giornalmente chi ha posto fede in Gesù Cristo, in ogni situazione. Chi ha pregato è stato ascoltato. La fede nel Dio delle circostanze non sempre è eclatante, ma agli occhi di Dio è simile a quella di Mosè, quando stese la sua mano sul Mare Rosso perché si dividesse. E io desiderio invitare ogni figlio di Dio a tendere a cose grandi, a dire con il salmista: grandi sono le opere dell'Eterno, ricercate da tutti quelli che si dilettano in esse. Salmo 111:2. Ma accettiamo umilmente anche le cose grandi espresse nell'umiliazione, nella sofferenza, nel dolore, nell'apparente sconfitta, simile a quella di Gesù sulla croce, perché Dio ha qualcosa di meglio e di smisurato da offrire. Febbraio 2004. Ellero.